volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì, ma crediamo d'essere chissà chi. A volte poi io mi domando dov'è che noi stiamo sbagliando. Fra tanti dubbi c'è però qualcosa che oramai io so. La vita è molto di più di un momento esaltante, di un giorno eccitante che poi se ne va. La vita cambia ogni istante, è come un amante che viene e che va. La vita è molto di più di un amore tradito, di un sogno sbiadito che forme non ha. La vita è un pieno di tutto che noi siamo. Trovare questa perduta identità, amarti con più dignità. Eccomi qua, più grande, più forte, tentiamo dai di aprire le porte ad una nuova vita che voglio dividere con te. La vita è molto.